fred in questa notte di settembre. Mi ritrovo chiuso come un cane in un canile, avvolto da quel tuo ricordo dolce come miele. Ripenso ad ogni attimo vissuto, in particolare ciò che ho detto e ti ha deluso. Quella promessa fatta, maledetta, quattro parole che non danno pace alla mia testa. E poi la porta della cella che si chiude alle mie spalle, clic clac, e l'orologio smette di fare tic tac. Chiuso in questa stanza, l'intolleranza danza, e la pena più giusta, la tua mancanza. Riaffiorano, ripensa alle mie dita sul tuo viso che ti sfiorano, a quegli occhioni azzurri pronti a dirti ti amo. Sfaso, se pensa a ciò che hai fatto in neanche un mese che ci conosciamo, Dio solo sa quanto ti amo davvero. Un sentimento tanto intenso a cui non riesco a fare a meno, e più ci penso, più mi ci trovo immerso, e non capisco se sia giusto meritare tutto questo. Non mi era mai successo, e nonostante tutto, mi resti accanto lo stesso. Fisso d'ora ed ora quell'anello alla mano, incisa la promessa, e sulla tua la stessa. Aspetta, il tempo si dice passa in fretta. Io senza te sono mare senza spiaggia. Io senza te solo nella città selvaggia. L'unica cosa che voglio è riabbracciarti presto, ma non essendo permesso mi sfogo sopra un testo. E cane pacco qui, ok G, dalla C barra C, San Vittore butta giusto pezzo sopra beat, dedicato a te, dolce vita mia speciale, che mi hai rubato l'anima in quella notte magica.